Stefano Cucchi l'aveva contato l'ex presidente commissione di Mani, senatore Manconi, è passato davanti agli occhi di 140 pubblici ufficiali in quei giorni. Nessuno di essi chiaramente si è fatto carico del problema. Se si fosse interrotta quella catena di custodia così, devo dire, cieca, Stefano oggi sarebbe ancora vivo e non staremmo a parlare del suo caso giudiziario. La cosa che più fa male è che Stefano è stato per oltre un'ora in visita di convalida di fronte a due magistrati, pubblico ministero e giudice, e di fianco al suo avvocato, e nessuno dei tre, diciamo, ha inteso adottare nessun tipo di iniziativa. Giudice e pubblico ministero furono sentiti nella prima inchiesta durante l'istruttoria e il pubblico ministero si giustificò dicendo che di non averlo mai guardato in faccia, il giudice di non aver mai dato niente. Viceversa, la segretaria d'udienza mise a verbale di aver notato delle lesioni, delle chimosi sul volto di Stefano, la sofferenza di Stefano, ma che tutto sommato non era una cosa eccezionale, anzi era una cosa che capitava spesso per i cosiddetti arrestati della notte. Ecco, il quadro che emerge di quell'udienza devo dire che è desolante. Stefano oltretutto ha rappresentato la sua difficoltà a parlare, la sua voce nitida, sofferente, è stata registrata, fonoregistrata, come accade spesso in queste udienze, ed è un patrimonio ormai sia giudiziario che comune di tutti, e anche nel film ne viene riportato uno stralcio. Devo dire che questo è lo specchio purtroppo della nostra giustizia, una giustizia che va a due velocità, che diventa ipergarantista nei confronti di coloro che hanno la possibilità economica di poter esercitare tutti i propri diritti di difesa, e che diventa invece un tritacarne per gli ultimi o per cittadini che non sono in grado di poterlo fare. Stefano è stato portato al giudice con un verbale d'arresto che lo qualificava come albanese senza fissa dimora, per il semplice motivo che prima di lui erano stati verbalizzati due albanesi. Qui si parla di ciclo stile, si parla di una giustizia di questo genere. Per questo che la morte di Stefano, la tragica fine di Stefano Cucchi, poi è diventata il caso giudiziario italiano degli ultimi anni, insomma, per questo motivo. Secondo lei, qualora, come ci si augura, il processo bis portasse all'individuazione e alla condanna dei responsabili della morte di Stefano, questo potrebbe servire a incrinare la percezione che la divisa non si processa e non si condanna, e costituire un monito per una maggiore vigilanza sull'operato delle forze dell'ordine, tanto da parte delle istituzioni ma anche dall'opinione pubblica? Ma certo, il problema è che non è che si vuol processare la divisa o condannare la divisa, e qui si vuol processare esseri umani che hanno la divisa, e come tali esseri umani possono sbagliare, possono rendersi responsabili di crimini, insomma anche di crimini comuni, come tante volte accade. Cioè, non è che il fatto di portare la divisa automaticamente renda santi, cioè il criterio di responsabilità, di uguaglianza delle leggi rispetto a tutti, un criterio che deve essere osservato a 360 gradi senza fare eccezioni, e quindi non è che se il carabiniere si macchia di questi reati è la divisa, cioè, certo è il carabiniere che nuoce la divisa, è il carabiniere che sporca la divisa, noi non è che stiamo processando la divisa, stiamo processando le persone che sono carabinieri che si sono resi responsabili di questi reati, e io mi auguro, ma ne sono certo, anche coloro che li hanno coperti.